voce. Valerio Binasco legge Il compagno di Cesare Pavese. Settima puntata. Carletto non mi riconobbe e discuteva col barista. Mi stupì perché vidi che non era più così gobbo, ma la voce era quella e il suo fare da molla. Era piccolo, aveva il cappello. Parlava forte, gli diceva che aveva sognato dei gatti e si muoveva come un gatto. Il barista rideva. Linda entrò e non lo vide. «Lo sai chi c'è al banco?» le dissi. «Oh, è Carletto!» E restò lì, seduta e contenta. «È mezz'ora che parla di gatti», le dissi. «Ha sognato che Torino era piena di gatti e che non c'era più nessuno. E per uscire bisognava fare il gatto e nascondersi e scappare sui tetti». «Tu non ne fai mai di questi sogni», disse Linda. «L'altra notte ho sognato Lili». «Bravo». «Ma non era Lili. Rassomigliava a mia sorella Carlottina. Andavamo per strada, lei davanti. Io dicevo, se si volta mi vede e mi scappa. Se si voltava sapevo che avrei visto Lili. Passavamo davanti a dei vicoli e avevo paura che sbucasse qualcuno. Poi correvo e Lili mi correva davanti e sapevo che voleva fare il giro dei vicoli e pigliarmi alle spalle. Ma Carletto ci aveva veduti, piantò il banco e ci corse vicino. Linda gli disse che bellezza. Si rifecero festa. Anche noi due ci salutammo. Sono qui da 2 giorni, ci disse Carletto. E già quel porco me l'ha fatta. Di un po' se riesco a lavorare. «E Dorina è con te?» disse Linda. «Tornata a Roma», disse lui. «Non si può vivere. Là tutti quanti sono parenti come i gatti». Si diede un pugno sulla fronte, poi sul tavolo. «Ecco perché ho sognato i gatti», gridò. «Anche Torino è come Roma». Linda mi disse: «E con Lili che cosa hai fatto?» Ricominciai. «Siamo arrivati in riva al mare. Correvamo. Lei scappava in bicicletta sulla sabbia. Raccolsi una pietra e tirai da lontano, mirando la testa. La pietra batté sulla testa e saltò dentro l'acqua. Lili cadde morta». Carletto disse: «Con tant'acqua è un brutto segno». «È chi ama che uccide», disse Linda. Raccontare quel sogno così a un terzo non mi fece piacere. Si resta sempre come quando non si ricorda più la fine di una storia o la chitarra non ti dice. Fa l'effetto di mettersi nudi. Dovevo dirlo solo a Linda in un orecchio. E invece Linda ci scherzava, lo pigliava sul serio e faceva le smorfie a Lili. Mi chiese: «E com'era vestita Lili?» «Non lo so». Qui Carletto ghignava. «Sì, sì», disse Linda. «Facevate l'amore». «Smettetela», disse Carletto. «Lo sai che stanotte mi butto nel po'?» «Come hai passato Capodanno?» disse Linda, cercando Lubrani per fargli la pelle, dopo che ho messo su una strada tanta gente. «Io non ho la sua faccia. Se torno a Genova mi fanno la pelle. Sai che gioco mi ha fatto? Ha tolto me per dar la sala a quella Clari». «Sciocchezze», disse Linda. «Tu piaci al pubblico, lo sanno tutti. Lui però non lo sa». Poi si calmò e canterellava i suoi motivi. Linda accese la sigaretta dalla mia e gli disse: «Raccontaci». Così Carletto recitò, cantò e ballò. Faceva tutto sottovoce, le cosette più stupide, gli attacchi dei balli, faceva finta di non dirli e schioccava le dita. Ogni momento un'altra voce. Linda rideva come un gallo. Della gente ci stava a guardare. Non avevo mai visto un attore a quel modo. Anche la gobba gli serviva. Sembrava il buco del suggeritore. Faceva l'orchestra, faceva le donne e non smetteva di fumare sotto mano. Si mise a ridere anche lui. «Non serve a niente», disse a Linda. «La compagnia adesso è sciolta». «È più bella così che in teatro», gli dissi. «Non ho mai visto una rivista più sintetica». «Non la darete anche a Torino?» disse Linda. Carletto ricominciò a bestemmiare. «Se stasera non vedo Lubrani», ci disse, «parola che mi butto nel po'». Noi avevamo appuntamento con Lubrani lì davanti, ma capivo che Linda non voleva parlarne. «Mi ha fatto dire al botteghino che stasera verrà», disse Carletto. «Vuoi cenare con noi?» disse Linda. Così mangiammo un uovo a testa e Carletto guardava da tutte le parti e diceva: Una volta qua dentro era acceso. Gridò al barista: «Ce la porti una candela?» Poi disse a me: «Non vi conosco voi. Chi siete?» «Ah, tu sei quello che suonava la chitarra. Non ti ha ancora fregato Lubrani?» «Faccio il meccanico», gli dissi. «Suono soltanto in chiave inglese». Linda rideva e ci guardava. «Se il tempo che perdi alla fabbrica lo mettessi a suonare davvero, ti saresti già fatto un bel nome». Carletto disse: «È mica stupido l'amico. Vorrei avercelo un mestiere come il suo». «Ma che nome», le dissi. «Piace suonare per chi ti conosce. Se ti fai pagare, dimmi tu, dov'è il bello?» «Fai bene», disse allora Carletto. «Fai bene così». Venne il momento che il caffè era tutto pieno. Mancava poco al varietà e chi si alzava, chi andava e veniva. C'era chi salutava Carletto e voleva discorrergli. Andò al banco con loro. Linda mi disse: «Andiamo via». Non volevo. «Andiamo via, se li facciano loro i discorsi d'affari». Disse qualcosa al cameriere e ce ne andammo. Salimmo a piedi al Paradiso. «Lubrani verrà se ne ha voglia», mi disse. «Noi balliamo». A metà sera ecco che arrivano Lubrani con Carletto. Sembravano in pace, Lubrani era allegro. Disse: «Basta ballare voi due, facciamo baldoria». Fece venire piatti freddi e vino nero. «Non avete cenato stasera», ci dice. «Mi lasciate patire Carletto». Carletto fece a Linda una minaccia con la mano. Senza paltò, come era adesso, di nuovo la gobba sporgeva. Ogni tanto Lubrani gli dava una manata e mangiammo, ridemmo e Carletto cantò di nuovo la rivista. «Pablo, ti manca la chitarra», dicevano. Un bel momento, non so come, ci fu lì seduta al tavolo. Io sapevo già tutto quanto e bevevo da scemo. Linda mi disse che partiva l'indomani. Capivo che Linda trattava Carletto come aveva trattato anche me. Poco alla volta stetti zitto e lasciai che si sfogassero. Avevo voglia di star solo, questo sì. Non so più quel che dissi e che feci. Ero mezzo sbronzo e ballai con Lili, ballai con Linda. Venne tardi, venne quasi mattino. Quando la macchina si fermò in Piazza Castello stavo già per andarmene rasente alle colonne, ma mi videro e dissero: «Pablo!» Da Lubrani la sbornia che mi era passata ritornò. Ci toccò bere dei liquori e Carletto saltava e gridava. Eravamo seduti per terra. Girammo la luce per restare all'oscuro, ma già la nebbia traspariva le vetrate e la neve sui tetti. Tutti sapevamo che Linda era in partenza e si parlava di far festa e di darle il brindisi. Chiesi a Linda: «Non torni a dormire a quest'ora?» Giravamo per la casa cercando caffè, mandarini, liquori. C'era la luce grigia di quell'ora. Era inutile accendere. Tutti quanti avevamo una faccia slavata da neve. E finalmente anche Carletto si fermò. Si sedette sopra un letto e mi disse: «Ci dormo. Vuoi lasciare Lubrani con le ragazze?» gli dissi. «Quella lì non è cattiva». Era mattino, avevo sonno. Lili volle uscire. L'aspettavano i cani. Linda stava nel bagno e Lubrani faceva bollire il caffè. Dissi a Lili di tagliar corto. Quando fui solo in quella stanza mi accorsi che Linda era come già in viaggio. Tanto valeva che tornassi a casa. Le chiesi attraverso la porta se usciva con me. Lei si arrabbiò e mi disse basta. Mi sentivo la voce malferma e dicevo altre cose da quel che pensavo. Una cosa sapevo: ero già solo e Linda in viaggio. Uscimmo insieme tutti quanti a mezzogiorno. Quando uscimmo dal bar, Linda disse sta buono e mi diede la mano. Arrivederci, e la lasciai. Restò là con Lubrani e Carletto. Così cominciarono quei 6 giorni da solo. Sapevo soltanto che era andata a Milano. Stetti 3 giorni sempre in casa o all'officina. Questa volta era inutile pigliare la chitarra. Se suonavo pensavo a tutt'altro. Stavo in negozio e guardavo la porta. Mi immaginavo che chi entrava fosse Linda. Cercai Milo al caffè per andare con lui, ma non c'era. Feci una sera all'osteria con Martino, ma senza suonare. C'era anche Lario, c'era Gilda e volevano andare a ballare. C'erano 3 o 4 facce nuove. Lasciai perdere e stavo a sentire i discorsi. Gilda parlava di una coppia che erano andati al Valentino, si erano seduti su una panca e tirati due colpi. Lei è morta, lui no. Com'è il mondo, pensavo. Una volta avrei detto salute. Il quarto giorno era domenica e ci fu la partita. Meno male che al football ci vieni, mi dissero. Brutta partita. Dopo cena avevo un foglio di musica da portare a Carlo Andrea. L'idea di entrare al Mascherino mi fece piacere. Ci andai, tranquillo, e non c'era nessuno. Erano tutti in teatro. Arrivò Carletto. Ah, mi fece. Fumava con rabbia e seccato. Come va questo numero? Dissi. Quel porco ha di nuovo tagliato la corda, sputò il fumo. È scappato a Milano. Stetti con lui tutta la sera. Quante volte gli chiesi se era proprio Milano e quando era partito, non so. L'ultimo giorno che ti ho visto, e me l'han detto a casa sua, una voce di merlo al telefono. Lui bestemmiava per quel turno che era di nuovo rimandato. Al botteghino non ne sanno niente. Mestiere porco, è la storia dei gatti. Gli chiesi se aveva famiglia a Torino. La famiglia, io l'ho sciolta per credergli. Io non ho un soldo, gli dissi. Per qualche giorno ce la faccio. Quando torna? Fra due giorni, mi han detto. L'indomani eravamo insieme già al mattino. Lui voleva sapere di quella Lili. Mi spiegò che, insomma, Lubrani era un uomo capace, che le ragazze le sapeva scegliere, che aveva soltanto quel vizio di non ricordarsi. Anche una cena la sapeva dare, sapeva stare in compagnia come Lili. Una volta era molto più quadro e non finiva una serata senza strappare il reggipetto a una ragazza. Quando vi siete conosciuti, con chi stava? Con quella Clary, che già allora gli mangiava dei soldi ma non gli aveva insegnato la vita civile. A quei tempi la Clary somigliava a Lili. E lui, Lubrani, che veniva dalla teppa, gli piacevano queste gattine pulite. Poi, siccome era furbo, si era accorto che dentro il teatro queste donne non durano. Nel teatro si sta con le unghie e coi denti, mi disse Carletto. Ti fanno la forca tutti quanti. Se sei gatto ti metti a graffiare. Figurati un po' le Lili come mordono. Così girammo tutto il giorno e avrei voluto anche dormire insieme a lui. C'erano due notti da passare. Lui mi parlava di Lubrani. Ma se stavo da solo era peggio. Quel che pensavo stando solo non mi sarebbe mai più uscito dalla testa. Verso sera Carletto mi domanda: cos'hai che non va? Perché? Ho qualcosa? Sai che facciamo? Mi disse. Vatti a pigliare la chitarra e ci troviamo un posto al caldo. Si beve una volta. Né chitarra né sbronza, gli dico. Non ho voglia di niente. Ma io sì, dice lui. Carlo Andrea ci guardava dal solito posto. Vide venire la bottiglia e cominciò a soffiarsi il naso. Carletto riempì due bicchieri e mi chiese una cicca, io gliela accesi. E in quel momento vidi Amelio nel letto. C'è qualcuno che ride stavolta, dissi brusco a Carletto. Non mi tenni. Carletto restò a bocca aperta e lasciò il fumo uscire adagio. Qui mi gira la testa, pensai. Non ci resisto. Allora dissi più tranquillo: dai da bere al vecchiotto, sono soltanto tre giorni che ho preso una sbronza, non resisto. Carletto disse: vuoi che andiamo al varietà? Mi misi allora con la testa sulle braccia, come fossi troppo stanco. Sentii che Carletto parlava col vecchio, sentii che il vecchio era venuto al nostro tavolo. Il tavolino era di marmo e chiusi gli occhi. Mi ricordai quella mattina che ero andato da Amelio con lei. Mi ricordai quando era entrata, che cosa diceva. Allora aveva la sciarpa celeste, mi ricordai che ero scappato. Ci eravamo urtati col fianco in cucina. Tutto quel fatto non aveva un senso allora, tutto doveva ancora succedere. Era come se allora fosse stato quest'oggi. Solamente adesso capivo il perché. Ci pensai sopra così, solo, per un pezzo. Sentivo Carletto burlare quell'altro, poi sentii che dicevano qualcosa di me. Rialzai la testa e feci finta di svegliarmi. Tutta la notte stetti solo e l'idea che dovevo passarne ancora una mi toglieva il coraggio. Ogni tanto dicevo delle cose nel buio, mi abbracciavo stretto al cuscino e dicevo qualcosa. Quel che pensavo ormai l'avevo già pensato tante volte, che era come gli scalini di casa. L'indomani girai da solo tutto il giorno e non era mai sera. Si mise a piovere, acqua e neve, e pensavo, chissà se piove anche a Milano. Dovevo andare al mascherino e adesso l'idea di trovarci qualcuno, Carletta, della gente così mi faceva piacere pensare che ci avrei passato la notte. Rimandavo il momento di andarci, mi pareva di perdere qualcosa a non essere più solo in quell'ultima sera. Carletto disse: ti ho trovato una chitarra, stavolta facciamo la festa noi altri. Erano attori che partivano per Roma e che sarebbero venuti al mascherino a mezzanotte. Vidi un buon segno in tutto questo e dissi: ieri stavo male, da qua la chitarra. Carletto disse che l'avrebbero portata con gli amici, per adesso beviamo. Tu fai bene, mi disse, sul vino, a non sprecarti nei teatri, sei più dritto di tanti, prendi me che per vivere ho dovuto cantare. Ma tu sei bravo, cosa c'entra? Un Lubrani c'è sempre. Gli chiesi allora perché non cercava lavoro con altri. Sai com'è, disse lui, mi hanno fregato quella volta. Tu non sai quanti uffici bisogna passare per avere un permesso. Lubrani ha di buono che piglia a occhi chiusi. E non puoi, dissi adagio, fare un altro mestiere? Non si cambia mestiere, disse lui. Cambi donna magari, ma non cambi mestiere. Guardò il bicchiere e lo vuotò. È un mestiere carogna, riprese. Tu mi piaci perché non lo fai. Se fossi in grado, lo farei. Va là, ti conosco, mi disse. Una volta ero anch'io come te. So che ti piace vivere solo e indipendente. Non ci pensavo che Carletto era più vecchio. Con quel testone e gli occhi chiari era ancora un ragazzo. Eppure aveva una dorina in qualche posto e le pieghe alla bocca e ghignava. Ieri sera gli dissi, volevo cambiare mestiere. Ero a terra, deciso. Mi guardò sotto sotto e cacciò un po' di fumo. Ti capisco, mi disse. Stavi meglio una volta. Quando arrivarono gli amici eravamo ancora qui. Arrivarono quando si accese la luce centrale e l'orchestra attaccava. Brava gente, Luciano, Fabrizio, Giulianella, con quei romani. Mi sembrava di essere solo e in compagnia, una razza diversa. Potevo scaldarmi con loro e potevo stare da una parte a vederli mangiare. Poi per noi ci fu quella saletta dove nessuno entrava mai. Su una chitarra è presto fatto andare d'accordo. Era già giorno che suonavo ancora. Valerio Binasco ha letto Il compagno di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.